in primo piano. Eccoci qui quindi a iniziare insieme questa settimana, sarò con voi sino a venerdì a raccontarvi un po' i giornali i quotidiani tutte le mattine. Quindi dicevamo prima che appunto essendo stata questa settimana molto anche con toni drammatici, insomma movimentata, chiaramente un po' tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali aprono appunto sul dopo strappo tra Berlusconi e Fini e prova di forza su Caliendo. Questo è un po' il banco di prova appunto di questi giorni, una volta che Fini ha lasciato appunto il governo, è stato espulso da Berlusconi. Come si comporteranno Fini e Finiani su questa possibile mozione di sfiducia al sottosegretario Caliendo, che vi ricordo sarebbe implicato nell'inchiesta sulla P3, come si comporteranno in un possibile voto di sfiducia che l'opposizione sta sostenendo da qualche tempo? Quindi diciamo Corriere della Sera, prova di forza su Caliendo, i Finiani decidono sulla sfiducia a Berlusconi, non corriamo rischi, si dice sicuro. La Repubblica, quindi si passa dalla prova di forza al governo alla prova, caso Caliendo, questo è il titolo di Repubblica. PDL Finiani test su Caliendo, invece dice la Stampa, no? Quindi la prova di forza, il governo alla prova, test su Caliendo, duello sul caso Caliendo invece per il Messaggero, un po' più guerresco diciamo nel titolo, mentre per esempio il giornale di Feltri continua un po' a cavalcare la vicenda della presunta insomma casa di Monte Carlo di Fini e della sua famiglia e della sua compagna. Il titolo è del giornale: prime crepe nel muro di omertà sulla casa dei Fini a Monte Carlo, e l'occhiello recita: i furbetti del Principato, riprendendo un po' questa felice espressione ormai entrata nel linguaggio comune soprattutto dei giornali, a proposito vi ricordate delle scalate alle banche, i furbetti del quartierino. Bene, allora cominciamo un po' a andare a vedere anche come approfondiscono questa notizia di primo piano i vari quotidiani. Poi vi ricordo che ovviamente non tutti, perché probabilmente è domani appunto il trentennale dalla strage di Bologna, 2 agosto 1980, non tutti lo riportano in prima pagina questa vicenda. Poi andremo a vedere un po' quali sono i giornali che danno più spazio. Sicuramente l'Unità, che dedica tutta la prima pagina assenti dal luogo del delitto, nel senso che il governo per la prima volta, il governo attuale insomma rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni, ha deciso di non essere presente con i suoi rappresentanti alle commemorazioni a Bologna per la strage di 30 anni fa, perché dice il ministro della difesa La Russa sono solo fischi, sono solo attacchi verso chi rappresenta il governo a seconda appunto dei periodi storici, e quindi è inutile che andiamo lì a prendere fischi. E poi ci sono le critiche e i commenti dell'opposizione. Ma insomma, cominciamo ad andare a vedere il Corriere della Sera come tratta la vicenda di la prova di forza su Caliendo, appunto questo il titolo. I Finiani decidono sulla sfiducia, Berlusconi dice non corriamo rischi, e c'è la vignetta di Giannelli con un Berlusconi in mutande sul lettino del medico. Il medico sarebbe dietro di lui, dietro le sue spalle, Gianfranco Fini, che appoggia l'orecchio per auscultare la schiena, dice dica 33, perché 33 dovrebbero essere appunto i Finiani alla Camera, quindi un numero abbastanza consistente. E il fondo di Piero Stellino sul Corriere si intitola il conflitto da evitare, e dice una cosa, adesso piano piano vi porto anche a questa lettura di Piero Stellino della vicenda. Dice: con l'espulsione di Gianfranco Fini dal Popolo della Libertà, un conflitto tutto interno a un partito fra due persone, Fini e Berlusconi, si è trasferito all'esterno, in Parlamento, tra due istituzioni, Presidenza della Camera, Presidenza del Consiglio. La nuova situazione sembra, ecco qui la lettura di Piero Stellino, eccitare la società civile. Addirittura, secondo lui, eccita la società civile questa situazione così di crisi all'interno del governo e soprattutto tra i due divorziati, Fini e Berlusconi. E dice non tanto divisa fra berlusconiani e finiani, la qualcosa, dice, sarebbe ancora uno scenario politico, quanto fra berlusconiani e anti-berlusconiani, che è la sindrome dell'isteria collettiva di cui soffre il paese. Questo secondo Piero Stellino. E dice poi, cita anche i giornali schierati. Allora, da parte del giornalismo liberal, che ama dettare la linea all'opposizione, dice Stellino, si suggeriscono a Fini come presidente della Camera, persino ritmi e modalità per rendere difficile la vita al governo. Si tratta di far fuori il Caimano e ogni mezzo è lecito. Poi salto un pezzo, va invece al giornalismo che dice fiancheggiatore del centrodestra, non è da meno rispetto a quello liberal. Invita il presidente del Consiglio a delegittimare quello della Camera, assegnandogli un ruolo che sarebbe poi nei fatti una sorta di improbabile edizione nazionale del caudillismo sudamericano. Questo per quanto riguarda appunto il Corriere e Piero Ostellino. Poi andiamo a vedere sempre il Corriere a pagina 6, un po' in retroscena, lo scenario. Quali possibili scenari si prospettano se davvero il governo dovesse entrare in crisi, ci fosse la sfiducia al sottosegretario della giustizia Caliendo? A sinistra fa breccia l'ipotesi Tremonti, ritorna, insomma, si era fatto il suo nome giorni fa come possibile nuovo premier al posto di Berlusconi se dovesse cadere il governo, e Maria Teresa Meli sul Corriere dice appunto a pagina 6: il primo a dirlo una ventina di giorni fa è stato il leader UDC Pier Ferdinando Casini. Con Tremonti aveva detto: premier, il PD darà il suo ok al governo delle larghe intese. E anche all'interno del PD fra i vari, D'Alema dice lo stima e col segretario c'è confronto. E poi anche Fioroni all'interno del PD, parte cattolica, responsabile del welfare, che dice lui premier, Tremonti premier, mal di pancia ma accetteremo. Che quindi questo potrebbe essere un possibile scenario, almeno secondo il Corriere, secondo anche alcune dichiarazioni di politici. Poi invece su Repubblica, caso Caliendo, governo alla prova, abbiamo detto, e Repubblica, come anche l'Unità, fa un'ipotesi ancora diversa, perché sui vari giornali Fini nelle sue dichiarazioni si dice con idee chiarissime e si immagina che possa o votare appunto a favore della sfiducia, quindi alleato diciamo in qualche modo con l'opposizione, oppure potrebbe, chi lo sa, riservare una sorpresa invece votando contro la mozione di sfiducia. Però vi dicevo, Repubblica e l'Unità fanno un'ulteriore ipotesi astensione sulla fiducia da parte di Fini e Finiani. Questo Repubblica, ipotesi astensione, e anche l'Unità, Caliendo, l'idea chiarissima di Fini, due punti, l'astensione. Quindi lo dà, addirittura l'Unità lo dà per certo che quella sarebbe, che sarebbe il suo atteggiamento insomma rispetto a questo voto di sfiducia. E andiamo a vedere Repubblica, che dice: oggi si decide sulla mozione contro il sottosegretario indagato, l'ex leader AN dice ho idee chiarissime. Bondi da parte sua commenta: Gianfranco finirà come Bertinotti, quindi evidentemente secondo lui fuori dal Parlamento e insomma un po' emarginato dalla politica centrale. E c'è questo fondo di Aldo Schiavone sulla prima pagina di Repubblica, il titolo è Il mercato dei deputati. Tutti quelli e sono in tanti che hanno giudicato in questi anni con piena buona fede Silvio Berlusconi come il protagonista di un grande rinnovamento della politica italiana dovrebbero riflettere su quello che sta accadendo oggi dentro e intorno al PDL dopo la rottura con Fini. E dopo appunto all'interno a pagina 21 racconta un po' secondo lui quali sono gli scenari. C'è molto interessante anche, vi dicevo, l'altra notizia che riportano varie prime pagine, questo del crollo delle vendite delle auto in Italia a luglio, meno 26%, quindi una percentuale molto alta. E a proposito della strage di Bologna, Repubblica è uno dei quotidiani che riporta in prima pagina l'anniversario che cade domani dei 30 anni e dice: neanche un ministro in piazza, Bologna il 2 agosto delle polemiche, la Russa dice non vogliamo prendere fischi. E così poi vi dicevo che anche l'Unità fa addirittura tutta la prima pagina sulla strage di Bologna, 30 anni di piduisti, e questo il fondo di Enrico Deaglio sulla prima pagina. E tra l'altro dice la destra diserta Bologna, poi c'è il discorso di Napolitano che dice dissipare ombre e dubbi, sul palco ci saranno due ragazze nate nel 1980, leggeranno i nomi degli 85 morti, ci furono e poi tantissimi feriti molto gravi insomma la strage di 30 anni fa. E poi l'Unità mette a costa due grandi, come vogliamo chiamare, grandi misteri della storia italiana, fra i maggiori questi, Ustica e il 2 agosto, dice Elena Pirazzoli, la memoria intima e quella collettiva per non cessare di chiedere verità e giustizia, anche perché sulla strage di Bologna, qualcuno dice appunto anche oggi sulle prime pagine fu una strage neofascista, però sembra che le inchieste stiano andando avanti e che addirittura spunti la pista palestinese, l'attentato palestinese che vendicherebbe l'arresto in quei giorni, pochi giorni prima, di un esponente palestinese in Italia che aveva base proprio a Bologna. Poi andiamo a vedere, sempre mantenendoci sulla politica, trasversalmente sui quotidiani, la stampa. PDL Finiani test su Caliendo, il presidente della Camera dice sulla sfiducia ho le idee chiarissime, che appunto poi c'erano Repubblica e Unità che parlavano dell'ipotesi invece astensione. E Ghedini, l'avvocato Ghedini, fra le altre cose, sulla prima pagina della stampa, in un'intervista a Claudio Sabelli Fioretti, che dice le toghe rosse non esistono, però c'è una corporazione fortissima, e poi dice le prescrizioni al Cavaliere è sempre colpa dei PM. Quindi un'intervista abbastanza così, almeno sorprendente o inaspettata a Ghedini. Poi andrete a vedere, se volete, all'interno delle pagine della stampa. Invece c'è, fra le altre cose, a proposito di letture della vicenda politica centrale di questi giorni, Luca Ricolfi, che dice il federalismo è la vera posta in gioco. E poi andremo a vedere in che senso intende Luca Ricolfi, sociologo ed esperto di materia federalista da diverso tempo, insomma, che scrive saggi su questo tema ritiene che sia un tema cruciale, estremamente cruciale per l'Italia, che in qualche modo entri anche in questo divorzio all'interno della maggioranza. E poi sotto Lucia Annunziata, che poi riprende a pagina 27, il sogno infranto del Cavaliere. Leggiamo proprio l'inizio nel fondo di Lucia Annunziata, che dice quel che avrebbe potuto essere. C'è una sorta di tristezza nella foga con cui Silvio Berlusconi sta provando in queste ore a rassicurare tutti sulla tenuta del suo governo. Comprensibilmente, dice Annunziata, qualunque sia l'analisi che se ne fa e qualunque ne sarà lo sbocco, la rottura dentro il PDL lascia come principale vittima sul terreno il sogno che il Premier aveva accarezzato nei primi mesi del suo terzo governo. Ma vi dicevo, la lettura di Ricolfi, che dice nessuno oggi è in grado di prevedere quali conseguenze avrà la rottura del rapporto tra Berlusconi e Fini, e però lui dice che appunto la partita centrale è il federalismo. Andiamo allora a pagina 27, così a leggere qualche stralcio del fondo di Luca Ricolfi, e dice che Fini fino a ieri era una spina nel fianco di Berlusconi, ma se il governo dovesse cadere per il tradimento dei Finiani, potrebbe trasformarsi in un utilissimo capro espiatorio. Berlusconi, dice Ricolfi, direbbe di aver fatto molto e che tutto quel che non è riuscito a fare è per colpa dell'alleato infedele che non ha perso occasione per metterlo in difficoltà. E questo, dice, gli permetterebbe di chiedere i voti che in qualche modo i Finiani traditori gli hanno portato via e l'hanno messo in difficoltà. E poi dice la partita, allora andiamo un po' al concetto centrale, la partita vera non si gioca certo sulla questione morale, né sulla legge elettorale, sulle regole della democrazia, sulla riforma della giustizia, sulle intercettazioni. No, dice Ricolfi, la partita vera si gioca sulla posta fondamentale della legislatura, ossia sul destino del federalismo, e sul federalismo gli attori in campo non sono solo Fini e Berlusconi, ma anche Bossi e Bersani. È d'accordo? Per Bossi lo sappiamo naturalmente, è la sua idea centrale, l'idea che sostiene da tempo la Lega, ma andiamo invece a che cosa dice del PD. Se il PD vuole la caduta del governo, non può che cercare un asse con i Finiani e i centristi di Casini e Rutelli, forze politiche notoriamente ostili o critiche comunque verso il federalismo. Ma se da tale asse dovesse nascere un'alleanza politica, dice Ricolfi, il baricentro di questo vasto schieramento moderato non potrebbe che essere il Mezzogiorno, un'arena in cui da tempo si esercitano movimenti e forze politiche che, sia pure con accenti diversi, vagheggiano la nascita di un partito del Sud. Questa è l'interpretazione piuttosto interessante di Ricolfi. Se il PD si ponesse alla testa di un tale schieramento, potrebbe forse vincere le elezioni, ma il prezzo sarebbe la morte del federalismo e la propria cancellazione dal Nord. In primo piano. Sempre Roberta Giordano con voi questa mattina per tutta la settimana a raccontare che cosa riportano i quotidiani sulle prime pagine, anche all'interno. Abbiamo detto che appunto la notizia centrale su cui aprono quasi tutte è la dopo lo strappo tra Fini e Berlusconi, quali sono gli scenari che si profilano, soprattutto in vista della possibile mozione di sfiducia voluta dall'opposizione nei confronti del sottosegretario Caliendo, che sarebbe coinvolto, che è coinvolto nell'inchiesta P3 della loggia, presunta loggia segreta. Abbiamo visto vari giornali. Adesso il giornale di Feltri, vi dicevo, anticipavo prima il titolo: prime crepe nel muro di omertà sulla casa di Fini a Monte Carlo. Quindi il giornale, vi dicevo, preferisce insistere su questo aspetto della questione, insomma, di questo divorzio e su questa casa di Fini, che sarebbe stata lasciata ad AN, Alleanza Nazionale, da qualche anno fa da una contessa Colleoni, discendente dal condottiero bergamasco Colleoni del 400, e che poi lui, secondo prime indiscrezioni, avrebbe poi per vari giri, insomma, fatto vendere al fratello della sua compagna a prezzo modico. Insomma, qui ancora cose comunque da appurare, però c'è il fondo di Massimo De Manzoni sulla prima pagina del giornale. Ve ne leggo giusto l'inizio, che dice: il muro di omertà eretto da giornali e politici a protezione di Gianfranco Fini sull'imbarazzante vicenda della casa di Monte Carlo comincia a sgretolarsi. Certo, non si può aspettare un comportamento anche vagamente corretto da Repubblica, se la prende col quotidiano Repubblica, la quale ha ormai fatto dell'uomo che presiede la Camera la bandiera attorno cui riunire la grande accozzaglia antiberlusconiana. Il quotidiano diretto da Ezio Mauro, dice De Manzoni, del resto ritiene di essere l'unico depositario del verbo, è pronto a sputtanare l'Italia all'estero con le sue ossessive campagne dalle incerte fondamenta, ma bolla come bastonatura mediatica quanto fanno altre testate, anche se muovono da presupposti ben più solidi dei suoi. E poi mentre diciamo gli altri quotidiani, Repubblica, il Corriere, secolo di XIX, la Stampa, XIX, sulla questione di Berlusconi e Fini, la mozione sul voto di sfiducia a Caliendo, che tutti dicono, insomma, Berlusconi cerca di rassicurare i propri dicendo ce la faremo, non abbiamo bisogno dei voti di Fini, invece qui ribalta la questione, dice: adesso i finiani hanno paura della prova di forza. E c'è poi questo pezzo di Cesaretti, Kramer e Zucchetti a pagina 4 e 5, appunto, sul fatto che sono i finiani in realtà che avrebbero paura di questa prova di forza. Vi ricordo, fra l'altro, adesso per staccarci un po' anche dall'argomento principale dei quotidiani di oggi, che il Sole 24 Ore oggi esce con, tra le guide pratiche, oggi c'è il codice della strada. Vi ricordo che proprio nell'ultimo fine settimana, quello da bollino nero, quello che è appena passato, che è iniziato il grande esodo verso le vacanze, è entrato in vigore appunto il nuovo codice della strada, tutte le novità e la mappa aggiornata di punti e sanzioni, quindi è meglio informarsi su questo. E poi su cosa apre invece il Sole 24 Ore? Il titolo è: in casa lavori sempre più veloci. Si tratta di domotica o di cose, insomma, così tecnologiche, che potrebbero accelerare e rendere più agevoli il lavoro in casa. È una questione interna alla manovra economica che è passata. Si parla della SCIA. La SCIA, che sarebbe la segnalazione certificata di inizio attività, cioè la SCIA taglia, che dentro la manovra taglia i tempi per l'avvio del cantiere, restano dubbi sulla semplificazione. Questo dal Sole 24 Ore. Invece andiamo a prendere il Secolo XIX, che parla sempre, appunto, l'apertura è sempre sulla prima tentazione di Fini. Questa è l'interpretazione che dà il titolo del Secolo XIX, quello, insomma, di mettere in grossa difficoltà il governo Berlusconi, anche se avrebbe, anche dopo lo strappo, dichiarato, insomma, fedeltà alla maggioranza. E sottotitolo: vorrebbe votare la sfiducia a Caliendo, ma le sue colombe frenano. E poi, sempre sul Secolo XIX, c'è un commento di Massimiliano Panarari che si intitola "I cesaristi da clac che hanno paura di tornare a Bologna", e si torna ancora appunto sul trentennale di domani della strage del 2 agosto a Bologna. Cosa dice? Giorno dopo giorno capita in Italia di assistere a una progressiva metamorfosi delle pratiche della politica, che comporta però conseguenze radicali che vanno ben al di là della politicienne. Sono trasformazioni prodotte dalle dichiarazioni, dagli atti dei politici, destinate a cambiare nel profondo, lasciando il segno e lasciando la visione stessa, cambiando la visione stessa del fare politica in questo paese. E dice Panarari sul Secolo XIX: l'ultimo esempio Il ministro della Difesa e coordinatore del PDL Ignazio La Russa ha affermato chiaro e tondo che nessun esponente del governo parteciperà oggi a Bologna alle manifestazioni per il trentennale della strage del 2 agosto, che appunto oggi. La motivazione è presto detta: il governo è stanco dei fischi e delle contestazioni che dalla piazza hanno accolto negli anni scorsi l'intervento dei suoi rappresentanti di turno. È una scelta senza precedenti, un unicum che inaugura l'ennesimo nuovo capitolo di questo scivolamento verso un panorama politico inedito rispetto a quello delle altre democrazie occidentali. Questo è il commento piuttosto amaro sul secolo XIX, appunto oggi in occasione dell'anniversario dei 30 anni della strage di Bologna. E poi c'è al centro pagina invece un titolo che riguarda la difficile situazione della crisi economica che colpisce soprattutto le donne, lo mette in evidenza il secolo XIX, dice: la crisi a Genova, visto che appunto è il quotidiano di Genova, travolge le donne, le vertenze di lavoro in aumento del 25%, i sindacati dicono diritti tagliati, anche la maternità dietro alcuni casi di licenziamento, che ormai sembra, almeno in Italia, una cosa abbastanza diffusa, che la maternità viene spesso penalizzata. Si parla tanto di tasso bassissimo di nascite, quasi zero, poi quando le donne che lavorano anche in in posizioni piuttosto alte poi vengono penalizzate in questo senso, magari anche con un licenziamento. Vorrei adesso cambiare completamente e andare su vi ricordo il foglio che intitola, a proposito della notizia politica centrale: adesso cosa farà il Cavaliere e la Lega, forche caudine in Parlamento, voto anticipato, ribaltone, le incognite appunto dopo lo strappo confini, che effettivamente ci sono diverse incognite. E sempre su questioni che riguardano le donne, l'Unità in basso: Afghanistan, le donne contro i signori della guerra, quindi le donne che cominciano a rivoltarsi, a ribellarsi. Non è cosa facile in un paese come l'Afghanistan, in altri paesi simili, islamici integralisti. E vi ricordo che proprio settimana scorsa sulla copertina di Time, del settimanale Time, c'era una ragazza afghana che si era ribellata agli uomini della sua famiglia ed era senza naso e senza orecchie. Questo per dire quanto devono essere coraggiose le donne anche lì. Allora, dicevo, andiamo sulla Gazzetta dello Sport, perché c'è un'intervista esclusiva a Prandelli al centro della pagina, intervista sulla nuova nazionale. Prandelli dice: a Mauri, Cassano e Balotelli, così torneremo sull'onda, voglio coraggio, entusiasmo ed equilibrio, Buffon sarà il capitano. E poi vi ricordo anche, a proposito di notizie sportive, naturalmente a parte Schumacher che fa il cattivo nella zona centrale della prima pagina del Corriere, che dice: una manovra da brivido con Michael Schumacher, che per evitare il sorpasso spinge contro il muro l'ex gregario in Ferrari, Rubens Barrichello, rischia di appannare definitivamente questo gesto l'immagine del vecchio re della Formula 1. Mi verrebbe quasi da chiedere che cavolo, diciamo, chi gliel'ha fatto fare di rientrare in questo modo poco felice la Formula 1. E poi vi dicevo la notizia sportiva importante: quattro amici d'argento, cioè ci sono voluti 36 anni per ritrovare gli europei di Barcellona, un quartetto azzurro sul podio europeo della staffetta 4%, secondo posto dietro alla Francia ai campionati di Barcellona.